America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Late Sunday, the White House released a list of priorities it wants in exchange for any agreement to protect young undocumented immigrants, hundreds of thousands of whom could face deportation. Bene, Donald Trump è pronto a far rimanere negli Stati Uniti i Dreamers, cioè quei giovani che praticamente sono cresciuti in questo paese, figli di immigrati che sono arrivati qui a 2-3 anni, hanno fatto la scuola americana e sono vissuti e cresciuti in America e che in qualche modo se ne dovevano andare. Sta cercando di negoziare con i democratici, in cambio vuole il famoso muro con il Messico. Ecco, insomma, il presidente torna a inseguire le sue promesse elettorali, ma il clima resta difficile, anche perché ci sono altre sfide, alcune ben più importanti, sul piano della politica estera aperte. Mi riferisco all'Iran, alla Corea del Nord. Certo, il mondo è complicato, un mondo nucleare con armi atomiche in mano a Kim Jong-un, il leader nordcoreano, è certamente pericoloso. In tutto questo, però, ecco, oggi vorrei soffermarmi proprio su questo aspetto. L'America, cioè l'America che guarda lontano, che sogna il futuro, non si ferma. E dunque vorrei raccontarvi di una proposta per il futuro. Ve la riassumo in una domanda semplicissima. Volete andare da Milano a Torino in 6 minuti? Ecco, secondo un gruppetto di visionari americani, che poi sono quelli che rappresentano la nuova frontiera di cui vi parlo ogni giorno raccontandovi l'America, ecco, questo gruppetto di visionari è sicuro che la possibilità sia dietro l'angolo. Sentiamo. We were doing initial fundraising, meeting with venture capitalists and whatnot. We got some very interesting responses, so like, really? You're gonna do this? You're gonna expect me to go in that? Ecco, chi avete ascoltato è Jason Giegel, che è il cofondatore e presidente di Hyperloop One, che è un'azienda manifatturiera, perché poi il manifatturiero ha ancora un suo ruolo, che vuole costruire, beh, chiamiamolo il quinto mezzo di trasporto. Parliamo di una tecnologia tubolare all'interno della quale una specie di treno, chiamiamolo treno, riesce a viaggiare a una velocità supersonica a 1200 km all'ora. Ecco, se questo davvero fosse possibile, vuol dire che potremmo andare da Roma a Milano in 25 minuti, da San Francisco a Los Angeles in mezz'ora, e è stato anche fatto un calcolo, dalla Corsica alla Sardegna in 60 secondi. Planes, trains, automobiles and boats. And what if there was a fifth mode? I have a name for it, which is called the Hyperloop. The Hyperloop, yeah. Ecco, altro visionario americano, Elon Musk. Elon Musk è l'ideatore, l'inventore, devo dire una sfida ciclopica quella che ha lanciato per la costruzione e la realizzazione dell'auto elettrica. E nel 2013, quando già stava lavorando molto bene sul concetto della Tesla, aveva già quest'altra idea. E nella dichiarazione che vi ho fatto ascoltare, lui dice: conosciamo sostanzialmente 4 mezzi di trasporto, macchine, navi, aerei e treni. E se ne inventassimo un quinto? Dice: io ho un nome per questo nuovo mezzo di trasporto, Hyperloop. Già nel 1909 ci fu un pioniere di quella che era la tecnologia per lanciare i razzi nello spazio, cioè Robert Goddard, che ideò un treno che sarebbe mosso in uno spazio vuoto, quindi senza pressione, in un contesto tubolare molto simile al concetto di Hyperloop. Dopodiché non se ne fece nulla, non se ne parlò più per parecchio tempo. Nel 1972 la Rand Corporation ideò una specie di ferrovia metropolitana supersonica che chiamò Vactrain. Di nuovo, l'idea c'era, mancava quella combinazione di tecnologia, talento e anche disponibilità finanziaria per trasformarla. Com'è nato questo passaggio? Perché a un certo punto Elon Musk viaggia verso Cuba per una missione umanitaria e si porta con sé Shervin Pishevar, che è un imprenditore in alta tecnologia nella Silicon Valley, e cominciano a parlare di questa idea del Hyperloop. Shervin Pishevar si associa con Josh Giegel, che è un ragazzo giovanissimo, vi dico, l'ho incontrato l'altro giorno a New York, appunto ho fatto una chiacchierata con lui ai margini del Tech Fest organizzato dal New Yorker, che è una specie di consesso per guardare al futuro, Ed è stato lui che mi ha raccontato un pochino questa storia. Per esempio che non appena partirono, fondando questo campus nel 2014, si raccolgono 8,5 milioni di dollari con una semplice emissione obbligazionaria. Poi a giugno, nello stesso anno, diventano 11 milioni di dollari. È possibile cominciare a fare della simulazione. La pressione nell'involucro viene abbassata fino a un millesimo della pressione normale. E nel 2015 nasce Apex, struttura di nuovo sperimentale, collocata nel deserto del Nevada, dove si può fare di tutto, a nord di Las Vegas, e nel maggio dell'anno successivo, al 2016, l'azienda prende il nome di Hyperloop One e riesce a raccogliere 80 milioni di dollari. Che dimostrazione fa in questa struttura sperimentale nel deserto del Nevada? Beh, riesce a portare una navicella da 0 a 218 km all'ora in 2,2 secondi. Pensate alla pressione. E il 20 luglio del 2016, subito dopo, nasce un impianto manifatturiero. Sentiamo di nuovo Josh Giegel. How much would it cost? How many people would ride it? And then there are a bunch of places that we are talking right now: Dubai, Colorado, Missouri. Ecco, George Giegel qui mi racconta come sia riuscito a tradurre questo suo sogno in qualche cosa di concreto. Ci sono già dei clienti e qui voglio aprire una piccola parentesi, perché la storia che vi ho raccontato sono entrato un po' nel dettaglio proprio per darvi un po' uno spaccato di come un'idea avveniristica negli Stati Uniti, nonostante ci siano mille problemi, alla fine trova un suo percorso per essere realizzata. In che modo? Beh, grazie alla combinazione di una pianificazione molto stretta sul piano industriale. In parallelo che cosa succede? Beh, si riescono a raccogliere i fondi necessari per finanziare questo esperimento. E che cosa ci ha raccontato Josh Giegel in quella dichiarazione che ho fatto ascoltare? Che qui non siamo a fantascienza, c'è già un progetto concreto, perché un primo paese in cui Hyperloop, dopo tutti questi esperimenti, diventerà realtà, sono gli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, che tra l'altro è il proprietario di Etihad Airways, dunque legato ad Alitalia, in qualche modo una nostra conoscenza, vuole che una dimostrazione di Hyperloop sia pronta per l'Expo del 2020. Qual è la sua richiesta? Che questo treno a capsule iperveloci possa coprire 157 km che separano Dubai da Abu Dhabi in 12 minuti. Vedremo se ci riusciranno davvero. Comunque la commessa c'è, il progetto funziona e anche questa è una delle storie che ci racconta come l'America, indipendentemente da tutto e dalle difficoltà, come vi dico ogni giorno, continua a guardare in avanti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, una canzone che parla di tecnologia in toni criptici e della società del futuro. Radiohead, Paranoid Android. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.